in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che, come molti quotidiani, sceglie di non titolare sulle elezioni. Le urne sono aperte in Emilia Romagna e in Calabria dalle 7. E ovviamente non si può oggi, si dovrebbe appunto usare un po' di silenzio elettorale durante queste, perciò io vi leggerò comunque i titoli che riguardano le elezioni senza entrare troppo nel dettaglio. Poi ci sono dei dati che naturalmente di cui si può parlare, come il fatto che in totale sono attese sulla carta 5,5 milioni di persone appunto alle urne in queste due regioni. Quindi il Sole 24 Ore ha un approfondimento sulla guerra dei dazi che prosegue, perché se da una parte si è chiusa la fase 1 tra Stati Uniti e Cina, se ne apre una con l'Europa. Guerra dei dazi, Trump colpisce acciaio e alluminio. Dall'8 febbraio ci saranno rincari tra il 25 e il 10% e l'Europa non è esentata. Timori dei produttori italiani per il rischio contraccolpi legati all'import in dumping. E poi c'è l'inchiesta con i dati analizzati da Gianni Dragoni, che si è specializzato negli anni in questo tipo di analisi. I dati sono quelli che riguardano le retribuzioni nelle società quotate e il focus in copertina è sulle 10 donne più pagate. Vengono definite 10 manager, in realtà ce ne sono due che esattamente manager non sono, cioè Miuccia Prada, che tra l'altro è al primo posto di questa classifica con 12,4 milioni di euro, e al 4 c'è Alberta Ferretti, che è la stilista del gruppo del marchio omonimo, che fa parte del gruppo AF. Questi compensi che vi ho detto, 12,4 milioni Miuccia Prada e nello specifico 1,56 Alberta Ferretti, sono dati in euro che riguardano il 2018 al lordo delle tasse, inclusi compensi monetari e plusvalenze da stock option, che sapete sono quelle azioni della società per la quale le persone lavorano, che vengono date appunto in generale ai manager, a volte anche ai dipendenti. Il Corriere della Sera, Lega PD, l'Emilia decide, questo è il titolo di apertura. Poi solo nel sommario si ricorda che si vota anche in Calabria. La fotonotizia però è dedicata alla bellissima vittoria, al bellissimo podio di ieri delle ragazze in Coppa del Mondo, delle ragazze dello sci azzurro, Curtoni, Bassino, Brignone, discesa magica per la precisione Elena Curtoni, Marta Bassino che è la più giovane a 23 anni e Federica Brignone, prima, seconda e terza, questa discesa libera che c'è stata a Bansko in Bulgaria. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche l'approfondimento, che poi trovate le pagine 8, 9 e 10, sul virus, il coronavirus, che causa un tipo particolarmente aggressivo di polmonite. L'allarme di Xi Jinping, il presidente cinese, l'epidemia accelera, stop ai viaggi di gruppo. C'è naturalmente tutta una serie di aggiornamenti sui morti in Cina e in altri paesi asiatici, sul numero di contagiati, sui milioni di persone ormai oltre 50 in quarantena in Cina, e poi anche molti altri approfondimenti a virologi e epidemiologi. Sulla questa vicenda decide di aprire la Repubblica, la grande paura cinese, il virus si espande, il presidente Xi convoca d'urgenza il Politburo, che è appunto l'organo più importante della Cina, il contagio accelera, situazione molto grave, i morti sono 41, quasi 60 milioni di persone sono in isolamento, Pechino blindata, evacuati gli americani. Naturalmente c'è anche un riferimento al voto, oggi il voto dalle 7 alle 23, Bologna duello finale tra Salvini e governo. Vi dicevo, la Repubblica grande attenzione, perché oltre al titolo di apertura ci sono le pagine 2, 3 e 5 con una mappa a pagina 2 e un articolo di Filippo Santelli, corrispondente dalla Cina, che spiega come si sta evolvendo il contagio. Poi un'intervista all'infettivologo Massimo Galli a pagina 3, casi anche senza sintomi, ma è ancora un rebus nel senso che come tutti i virus è in continua mutazione, quindi è molto difficile trovare per esempio un possibile vaccino o comunque dei farmaci che non possono essere gli antibiotici che lo curano, che ne curano gli effetti. E poi a pagina 5 l'approfondimento di Federico Rampini, turismo e consumi, Pechino chiude, l'epidemia globale frena l'economia. Titolo un po' allarmista, ma vedremo se nei prossimi giorni l'atteggiamento che secondo tutti i giornali, secondo tutti gli osservatori, Pechino sta avendo in questo caso molto diverso da quello che ci fu con l'epidemia di SARS, cioè di maggiore trasparenza, di maggiore apertura anche ad esperti internazionali. Vedremo se l'epidemia verrà, appunto, si riuscirà a contenerla. L'Espresso in edicola come ogni domenica con La Repubblica, oggi si vota e c'è un asterisco sopra a vota perché naturalmente che oggi si voti lo sappiamo, l'asterisco per il Quirinale, questa è l'interpretazione dell'Espresso. Dopo le elezioni in Emilia Romagna e in Calabria la politica entra nella fase decisiva, il destino del governo Conte, il seguito della legislatura e la corsa alla successione di Sergio Mattarella a 2 anni dalla scadenza del mandato, tra lotti di potere dei partiti e candidati al Colle che si muovono nell'ombra. La Stampa, anche in questo caso come il Corriere, apre sulle elezioni, quindi l'Emilia alle urne, Conte si blinda, anche in questo caso la Calabria sparisce dal titolo, c'è però nell'occhiello seggi aperti dalle 7 alle 23 per scegliere anche il presidente della Calabria. È molto chiara la posizione del direttore della Stampa Maurizio Molinari, che intitola il suo intervento della domenica, per una volta non alla politica estera ma a quella italiana, la Maginot, cioè la linea Maginot, quella che nella prima guerra mondiale indicava appunto il punto in cui bisognava arginare l'avanzata dell'Armata Rossa e dei tedeschi. La Maginot contro i sovranisti di Maurizio Molinari. E perché questa linea Maginot? Perché secondo Maurizio Molinari appunto è l'Emilia Romagna che è stata guidata ininterrottamente dal dopoguerra da quello che all'inizio fu il PC, poi il PDS, poi il DS e ora il PD. La fotonotizia però è dedicata al Torino, una delle due squadre di Torino. Il Torino sprofonda e prende 7 gol in casa dell'Atalanta. L'Avvenire ha un'apertura completamente diversa, anche se in prima pagina le elezioni ci sono, perché c'è una ennesima denuncia dell'ONU, delle Nazioni Unite, sulla Libia. Stato di tortura, gravi abusi nei campi governativi. L'Italia sta per rinnovare in modo automatico il memorandum con Tripoli. Fotonotizia dedicata al virus cinese che blocca i viaggi e alle dichiarazioni del presidente Xi Jinping. Allarme grave, ma ce la faremo. Il Messaggero ha un approfondimento, un'apertura ancora diversa e 2 pagine dedicate al tema delle pensioni. Pensioni 64 anni e assegno ridotto. Infatti domani il governo vede i sindacati, vedremo poi in che atmosfera dopo le elezioni, dopo i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, per il dopo quota 100, proposta di uscita anticipata calcolata con il sistema contributivo. TFR agli statali, anticipo bloccato. E trovate tutto alle pagine 2 e 3, questi approfondimenti sul tema delle pensioni. Sulla questione del virus, del coronavirus, c'è un altro approfondimento e un altro angolo, perché secondo alcuni infettivologi il contagio è possibile anche da portatori sani, cioè da persone che hanno il virus ma che non hanno la malattia in modo conclamato, quindi ancora più difficile da individuare la presenza del virus in queste persone, perché sapete che per esempio sono stati predisposti molti screening in molti aeroporti, si passa sotto una sorta di metal detector che segnala però se si ha la febbre. Ovviamente se si è portatori sani questo non viene segnalato. In prima pagina la fotonotizia di Elena Curtoni tra Marta Bassina e Federica Brignone sul podio di Bansko, quindi le ragazze che trionfano nella discesa libera. Stessa fotonotizia per Il Giorno, che però le definisce le moschettiere. e poi titolo principale dedicato al voto. Oggi voto cruciale, gli ultimi veleni, l'unico giornale che apre su questo, che mette Emilia Romagna e Calabria sullo stesso piano. Emilia Romagna e Calabria ai seggi, silenzio elettorale, accuse tra PD e Salvini, e poi anche un approfondimento su quello che hanno fatto le sardine ieri. La Verità, si vota, i migranti restano in mare. Perché questo titolo? Perché ieri sono state salvate altre persone in mare a circa 30 miglia dalla Libia, ma non hanno ancora trovato un porto. L'interpretazione della Verità è che non è successo perché appunto c'è il voto di mezzo. La fotonotizia però è un fotomontaggio di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Conte nel bunker, ecco che cosa può succedere da domani. Libero, PD, virgola, voto a perdere, comunque vada, sinistra alla frutta. Poi l'articolo principale è di Alessandro Giuli, due gli approfondimenti, da una parte su Grillo che ieri ha annunciato che interrompe la sua tournée teatrale perché deve fare un intervento chirurgico. Grillo va a nascondersi, questa è l'interpretazione di Libero. E poi un approfondimento sulle ultime dichiarazioni tramite il suo giornale, i suoi editoriali, di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. L'erba voglio di Travaglio, il giornalista crede che la destra sia squadrista. Un titolo come sempre sobrio di Libero: più che un antisemita è un cretino, è l'analisi di Renato Farina sull'episodio di Mondovì, dove qualcuno ha scritto Juden hier, cioè qui ci sono degli ebrei, sulla porta in realtà di un'abitazione dove abita il figlio di una partigiana che fu deportata non perché ebrea ma per motivi politici. Il giornale: mandiamoli tutti a casa, elezioni in Emilia Romagna e Calabria, il voto è un'occasione per licenziare la sinistra, da Zingaretti alle sardine, passando per Conte. E poi c'è una lettera aperta al giornale di Silvio Berlusconi, che naturalmente tramite le sue società controlla e anche l'editore del giornale, e si intitola «Perché Forza Italia è più necessaria che mai». E poi la fotonotizia invece è dedicata all'epidemia di coronavirus, l'ipotesi virus creato in laboratorio militare, perché naturalmente in questi giorni ci si chiede anche perché tutti questi virus, e in particolare quello della SARS e adesso questo coronavirus, vengano dalla Cina e per quale ragione. Alcuni ipotizzano che venga dagli animali, e in questo caso invece l'ipotesi è che venga da un laboratorio militare. Ultime due prime pagine prima della pausa: il Fatto Quotidiano, silenzio elettorale, il fuorilegge, che è riferito a Salvini, che appunto ha violato il silenzio elettorale che è definito per legge. E poi il Manifesto, foto scattata a Bologna, regione e sentimento, al posto naturalmente di ragione e sentimento, che è il titolo di uno dei libri più famosi di Jane Austen. Ci lasciamo un attimo, sentiremo anche gli aggiornamenti sul metodo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori, e doppio grazie agli ascoltatori che mi fanno notare che la linea Maginot in realtà era della Seconda Guerra Mondiale, non della Prima come ho detto io, e soprattutto costruita a partire, in realtà adesso sono andata naturalmente a controllare, a partire in realtà dal 1928, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, 400 chilometri in tutto di fortificazioni, un sistema di fortificazioni soprattutto sulla frontiera tra Francia e Germania. Veramente grazie, così attenti innanzitutto a notare l'errore e poi a segnalarlo anche con gentilezza. Poi non capisco invece veramente l'attenzione invece degli ascoltatori, come il solito ascoltatore che evidentemente ha una sorta di masochismo, perché ascolta però poi manda quelle faccine orribili, della faccina scontenta vicino la pistola. Ma perché veramente, ma dedicare così tanto, mi piacciono gli ascoltatori che appunto hanno un ascolto attento e consapevole, invece questo ascoltatore che ce l'ha con me aggiunge anche un po' di turpiloquio, ma buon per lui evidentemente, cioè contento lui più che buon per lui. Ma andiamo alle pagine interne dei quotidiani e torniamo sul Sole 24 Ore, che ha a sua volta come Il Messaggero un approfondimento sulle pensioni, con soprattutto un focus su quota 100, la misura, ricorderete, fortemente voluta nel precedente governo dalla Lega, che ora è in discussione, riforma delle pensioni, confronto al via, rispunta l'ipotesi stop a quota 100. Trovate tutto a pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi. E poi, visto che negli Stati Uniti continua la corsa dei candidati alle primarie dei democratici, che servono per scegliere il candidato che sfiderà Donald Trump nel novembre del 2020, Riccardo Barlam propone questo approfondimento dagli Stati Uniti: così i democratici corteggiano l'America rurale per battere Trump. E ci sono le ricette dei sei candidati che secondo Riccardo Barlam sono appunto i più quelli che hanno più chance poi di avere la nomination e quindi correre ufficialmente per i democratici contro Donald Trump dei repubblicani. E sono Joe Biden, che come sapete è stato vicepresidente di Obama per due mandati, Michael Bloomberg, che è entrato da poco nella corsa, Pete Buttigieg, che è un ex sindaco dell'Indiana, è il più giovane, ha 38 anni, è apertamente gay e questa è già una novità. Poi c'è Bernie Sanders, che sapete aveva corso alle primarie anche nella precedente elezione, poi l'aveva spuntata Hillary Clinton come candidata per dei democratici. E poi ci sono due donne, Elizabeth Warren, che ha 70 anni, è una senatrice del Massachusetts, e poi quella che mi ha più colpito personalmente ascoltando i dibattiti, Amy Klobuchar, che è una senatrice del Minnesota, ha 59 anni ed è un po', secondo l'analisi di Riccardo Barlam, l'anima centrista dei democratici. La sezione Lifestyle, come ogni domenica, questa settimana è tutta dedicata a Tokyo. Federico De Cesare Viola, che è soprattutto un esperto di enogastronomia, racconta: vi presento Tokyo, c'è un piatto per ogni ora, da Akasaka a Ginza, Ueno, tre quartieri di Tokyo, itinerario tra ristoranti di sushi, izakaya, mercati e cocktail bar. Mentre sempre a proposito di piaceri culinari, la pagina 3 della sezione Lifestyle di Fernanda Roggero: cucina gourmet ad alta quota. Sulla scia dei ristoranti stellati, centinaia di rifugi di montagna negli ultimi anni hanno compiuto un salto di qualità negli ingredienti, spesso bio e con piatti della tradizione. Mentre il design ce lo racconta Fabrizia Villa, focalizzandosi sulle scale. La personalità di una casa è una questione di scale. Da semplice elemento strutturale di collegamento, i gradini tornano a essere fulcro del progetto architettonico, che detta il tono a tutto l'ambiente domestico. Possiamo dire, per chi ha la fortuna o la sfortuna, non lo so, di abitare in una casa che ha delle scale interne. Molto interessante ho trovato l'approfondimento di Elena Tebano sul Corriere, pagina 17 del Corriere, che racconta di questa cantante Taylor Swift, che ha debuttato nel 2006 e ha raccontato molte cose di sé. È una ragazza bellissima, ha 30 anni, e dice, l'articolo è intitolato L'insostenibile bellezza di Taylor, perché l'artista ha fatto molte rivelazioni anche sulla malattia della madre, ma soprattutto sul rapporto con la sua bellezza, con lo specchio, potremmo dire. C'è sempre uno standard al quale non si corrisponde, mi fa male vedere le mie foto. Colpisce sempre quando una donna bellissima dice apertamente comunque di sentirsi insicura sulla sua bellezza. Ricorderete tutti naturalmente le difficoltà in questo senso di Marilyn Monroe, che alla sua epoca era considerata la donna conosciuta, perché poi chissà quante bellezze sconosciute ci sono, però la donna conosciuta più bella del mondo. Interessante anche l'articolo a pagina 11 della parte del Corriere di Milano, interessante perché è dedicata a questo fenomeno che ci riguarda tutti, che è l'obsolescenza degli oggetti. Gli oggetti hanno vita sempre più breve, dagli smartphone ai tablet, gli aspirapolveri, le lavatrici, i PC, le lavastoviglie, e così proprio perché hanno questa, addirittura secondo alcuni, un'obsolescenza programmata, che poi quindi ci spinge a dover cambiare tutti questi oggetti, pezzi di ricambio introvabili, un portale web per segnalare i trucchi dei produttori, soprattutto di smartphone, che in media vengono sostituiti ogni 18 mesi. La Repubblica invece ha due approfondimenti dall'estero molto importanti secondo me. Uno è dall'Iraq, Pietro Del Re, inviato a Baghdad, tra i giovani ribelli di Baghdad che sognano un paese mai visto, fuori americani e iraniani. E poi invece Francesca Caferri, inviata a Beirut, quindi la capitale del Libano, come la rivoluzione di Beirut scuote l'intera regione. Ci siamo finalmente svegliati. E poi un altro reportage, in questo caso dall'Italia da Roma, di Corrado Zunino, sempre su Repubblica, pagina 25, Gli invisibili di San Pietro. Salvatore il diplomato, Michele che puliva un ristorante, una notte tra i clochard che dormono sotto il colonnato. E poi una storia per chi ama la natura o comunque osserva con curiosità il comportamento degli animali, spesso quando dividono il territorio in cui vivono le persone, i cacciatori di orme per la pantera in fuga che beffa anche i droni. Avvistata tra San Severo e il Gargano, è scappata dalla casa di un boss. Ora è arrivata una squadra di specialisti e il sindaco invita a pregare. C'è una intervista di Giacomo Talignani all'etologo Enrico Alleva che dice: è lei ad avere paura di noi, degli esseri umani, non attaccherà. Poi vi segnalo dalla Stampa un intervento di Giuseppe Pignatone, che è stato procuratore di Reggio Calabria e anche procuratore di Roma, e il 3 ottobre tra l'altro il Papa lo ha nominato presidente del Tribunale del Vaticano, che entra da tecnico nella questione della riforma della giustizia, politica e magistratura, il processo penale non risolve tutto. E poi, visto che domani è la giornata della memoria, la giornata in cui si ricorda che il 27 gennaio del 1945 il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau venne liberato dai soldati sovietici, poi naturalmente arrivarono anche gli alleati e gli americani, e quindi in occasione di questo molti giornali hanno trovato dei tagli, a volte anche diversi, per appunto parlare della giornata della memoria. Leonardo Martinelli da Parigi ci racconta Il falsario di Parigi, la storia fino a poco fa sconosciuta di un eroe della resistenza. I suoi passaporti salvarono la vita a 14.000 ebrei. Non ha mai voluto parlare, sappiamo delle sue gesta da un libro scritto dalla figlia. Parliamo di Adolfo Kaminski. Trovate tutto questo a pagina 18 e 19 della Stampa, che tra l'altro pubblica anche una mappa intitolata Non soltanto Auschwitz, i primi lager a essere scoperti nel cuore della Germania, e sono anche in zone appunto diverse. L'avvenire si concentra sulla questione della malaria, che sapete è una malattia potenzialmente eradicata, ma soprattutto con la prevenzione. Ci potrebbe però essere presto un vaccino. A pagina 5, anche la malaria ora ha il suo vaccino, passo storico, l'arma che mancava. Dopo 3 decenni di ricerche, il farmaco, di cui sono necessarie solo 4 dosi, è stato approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E tra l'altro si parla anche di, definendolo un altro flagello per il Venezuela, paese martoriato soprattutto dalle difficoltà economiche, da qualcosa che si avvicina sempre di più a una carestia, le persone muoiono di fame in Venezuela, e si aggiunge adesso anche un diffondersi della malaria. Dal Messaggero vi segnalo, prima della pausa, un approfondimento invece sull'Iran. Abbiamo parlato di Iraq e di Libano. In Iran invece arrestato il soldato che ha abbattuto l'aereo, quello ricorderete, ha abbattuto l'aereo civile abbattuto vicino a, appunto che stava per decollare, anzi era già decollato da Teheran da 3 giorni dall'attentato in cui fu ucciso il generale Soleimani, e quello fu un errore ovviamente della contraerea iraniana, e il soldato che responsabile di quell'attacco adesso è in carcere, lo ha detto in un'intervista il ministro della difesa iraniano. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. In primo piano. A Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ancora buona domenica, eravamo nelle pagine interne. Ci sono alcuni giornali come il Messaggero o anche Libero che ricordano anche il terremoto che c'è stato tra venerdì e sabato in Turchia, un terremoto di magnitudo 6,8 che per ora ha provocato 22 morti, ma sono soltanto i morti accertati, perché il terremoto è avvenuto nella provincia di Malatya, che è una zona isolata della Turchia, quindi non è facile né portare i soccorsi né capire effettivamente quale sia il bilancio. Un altro articolo che vi segnalo, sempre dal titolo un po' così disturbante, è: il cellulare il nemico delle coppie, spegne il romanticismo, aumenta la belligeranza, l'uso continuativo è responsabile, scrive Fabrizio Barbuto a pagina 13 di Libero, del 56% dei litigi, perché per molti nasconde un tradimento. Le consuete due pagine della domenica che il giornale dedica agli animali, in particolare agli animali da compagnia, c'è questo approfondimento da Kafr Nabl, una società della Siria, naturalmente bombardata come la maggior parte delle città siriane, dove ormai vivono più gatti che umani. Pensate, c'erano 40.000 persone, ne sono rimaste solo 100 e poi migliaia di felini. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un approfondimento di Dario Balotta sulla concessione, una delle tante concessioni per la gestione delle autostrade. Questa è la concessione alla società che fa parte a Gavio. Gavio e C possono esultare, concessioni di nuovo a gara. Invece di riprendersele, eliminare i pedaggi, essendo già ammortizzate, il Ministero mette a bando le tratte scadute. E poi un approfondimento, in questo caso dalla Spagna, da Madrid, perché c'è una sorta di crisi diplomatica, o comunque forse sfiorata, perché la Spagna ha accolto migliaia di richiedenti asilo venezuelani, ovviamente anche per ragioni linguistiche, ma il governo Sanchez non ha voluto ricevere Guaidó e l'opposizione venezuelana naturalmente si è arrabbiata. Quindi un po' una mancanza di presa di posizione da parte del primo ministro Sanchez. Altro approfondimento, questa volta dal India, forse un paese di cui non ci occupiamo tanto, ma per esempio l'Economist ha dedicato all'India la sua copertina di questa settimana, cioè l'edizione in edicola da venerdì, per questa legge sulla cittadinanza che ha promulgato il premier Modi, che in un certo senso discrimina i musulmani, che però in un paese che conta più di 1 miliardo di abitanti sono 200 milioni, e quindi Cristina Piotti ci racconta: Islam in piazza contro la legge sulla cittadinanza, le nonnine di Delhi, perché sono scese in piazza anche molte donne anziane in rivolta, basta discriminare le minoranze. Ma ora passiamo, nei pochi minuti che ci restano, ai supplementi domenicali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Insegnare e parte da alcune parole di Niccolò Machiavelli, dal Principe. Sono così tanto semplici gli uomini e tanto ubbidiscono alle necessità presenti, che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. È una delle tante amare considerazioni sulla natura umana che costellano il Principe di Machiavelli, un libro vivente in cui l'ideologia e la scienza politica si fondono nella forma drammatica del mito, come lo definiva Antonio Gramsci. Due sono i vizi umani bollati dal segretario fiorentino. Da un lato c'è la semplicità, che è sinonimo di candido egoismo, di scaltrezza ingenua, di faciloneria nel voler risolvere le necessità presenti. D'altro lato scatta l'inganno di chi è astuto e gli stende la sua rete di illusioni, di soluzioni immediate, così che l'altro, che si dibatte nelle sue difficoltà, si lasci irretire, come la mosca nella ragnatela. Machiavelli, nella sua freddezza quasi entomologica, semplicemente registra questo fenomeno che ingigantisce sia la schiera degli ingannatori sia quella delle prede. Sta a noi aggiungere un giudizio etico, soprattutto quando nell'epoca della cultura digitale il proliferare delle fake news, delle lusinghe e dei miraggi avvolge una folla di utenti sempliciotti più che semplici. C'è però un corollario altrettanto certo, formulato da un altro politico, Abraham Lincoln: potete ingannare tutti per qualche tempo o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per il naso tutti per tutto il tempo. La copertina vera e propria, però, è un intervento di Daniele Garrone, che è un biblista e pastore protestante valdese ed è docente di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia, e pubblica questo intervento molto interessante, sempre in occasione della giornata della memoria, che è domani. Noi accecati dal disprezzo per gli ebrei, alle radici dell'odio, il processo che portò il secolare antigiudaismo cristiano a mutare nell'ancora più aberrante antisemitismo concepito nel mondo tedesco dell'Ottocento. E poi vi segnalo sempre dal supplemento domenicale un bell'articolo di Patrizia Caraveo, che mette insieme tre libri usciti di recente: L'astrofisica per chi va di fretta, pubblicato da Raffaello Cortina; L'astrofisica per ragazzi che vanno di fretta, sempre per Raffaello Cortina; e poi Guida turistica per esploratori dello spazio. E quindi naturalmente il tema è la divulgazione scientifica, tutto quello spazio in così poco tempo. La divulgazione scientifica soddisfa la curiosità di adulti e ragazzi interessati a una veloce infarinatura sulle stelle e sui pianeti. A proposito della giornata della memoria, vi segnalo in particolare a pagina 28 l'articolo di Giulio Busi, Espropriazione della vita, e come l'archivio di Intesa San Paolo esponga le carte relative alla requisizione dei beni agli ebrei, che accelerò nel settembre 1943 una violenza forse più sottile di quella fisica. E sempre lasciamo un attimo il supplemento del domenicale del Sole 24 Ore, in questi meno di due minuti che ci restano, la copertina della lettura, supplemento culturale del Corriere della Sera: non dimentico, non perdono, non odio. E è naturalmente anche in questo caso riferito alla giornata della memoria. E invece, tra l'altro, vi segnalo dalla lettura un lungo approfondimento molto interessante sulla scultura in bronzo e anche sul bronzo come materiale. È un metallo che vive ancora oggi una stagione d'oro, se non sembrasse un paradosso dirlo, e ci sono quattro pagine in cui appunto la lettura racconta alcune esperienze della scultura e dell'artigianato. Robinson, il supplemento della Repubblica, supplemento culturale: caro vecchio giovane Holden, infatti il 27 gennaio di 10 anni fa moriva J.D. Salinger, autore del Giovane Holden, il suo libro più famoso. Poi in realtà ne aveva pubblicati anche altri due e una raccolta di racconti, e qui ci sono molti scrittori che lo ricordano, tra i quali Alessandro Baricco, un suo grande ammiratore. Vi segnalo tempo ancora solo per Macro, la copertina del supplemento culturale della sezione culturale del Messaggero: il riscatto delle donne più temute dall'uomo, e cioè le streghe. Un po' si prende spunto dalla serie Luna Nera, che è una serie Netflix che andrà in onda dal 31 di gennaio, ma in generale appunto si parla di questa figura quasi mitologica delle streghe. Poi naturalmente ricordiamo nel Medioevo la caccia alle streghe e tutte le donne che furono bruciate arse vive, spesso perché appunto accusate di essere delle streghe, qualunque cosa questo volesse o voglia dire oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.